Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Destinazione Germania nel nostro menu odierno, con un focus sulle opportunità di lavoro in terra tedesca, che potrà risultare molto interessante per i nostri ingegneri all'ascolto. Ma non finisce qui, perché a seguire ci sposteremo ancora più a nord per parlarvi di un libro che potrebbe darvi una grossa mano a realizzare il vostro progetto di espatrio in Norvegia. E non perdete di vista gli ultimi numeri sull'immigrazione dei giovani italiani. Giovani Talenti. La frase della settimana è in realtà un tandem, copyright sia del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker: non accetterò che i millennials possano essere la prima generazione in 70 anni a essere più povera dei propri genitori. Noi possiamo aiutare, ad esempio, con Garanzia Giovani, ha detto Juncker, promettendo il rifinanziamento proprio di Garanzia Giovani per un totale di 2 miliardi nel triennio 2017-20. Ed è anche la frase della settimana, copyright del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: non c'è dubbio che la risposta più urgente è dare prospettive per i giovani su crescita e occupazione. Questa è l'esigenza prioritaria dell'Unione Europea, ha dichiarato. Purché, sottolineiamo una volta di più, non si perpetuino alcuni devastanti vizi italici. Nella ricerca di un impiego in Italia continua a prevalere l'uso del canale informale. Rivolgersi a parenti, amici e conoscenti risulta la pratica più diffusa nell'85% dei casi, a confermarlo l'Istat. Seguono l'invio di curriculum e la ricerca tramite internet, più frequenti tra giovani e laureati. Per quanto riguarda il livello di istruzione, chi investe nell'università si trova avvantaggiato. Il tasso di occupazione aumenta soprattutto tra i laureati, accentuando il già ampio divario esistente, 78% in confronto al 64% dei diplomati. E noi facciamo rotta ora verso uno dei paesi europei più attraenti per i nostri giovani professionisti espatriati, paese che farà da sfondo a questa puntata, la Germania. La crescita è sempre a disposizione, si tratta di quanta voglia uno ha di prenderla. La carriera, valgono sempre le solite regole: chi vuole fare carriera le fa comunque in qualunque paese. Michele Barbagli, 31 anni, è un ingegnere meccanico ed area sales manager in Germania. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. I ragazzi che vogliono andarsene hanno tutto il diritto di farlo, noi dobbiamo creare un clima che permetta loro di tornare, così il presidente del Consiglio Renzi ha commentato i recenti dati del rapporto Fondazione Migrantes. Siamo ancora poco attrattivi, ammette Renzi. I dati, anticipati la scorsa primavera proprio da Giovani Talenti, raccontano che sono oltre 107.000 connazionali immigrati nel 2015. Hanno fatto le valigie soprattutto i giovani tra i 18 e i 34 anni, un terzo del totale. La meta preferita è la Germania, Lombardia e Veneto, le principali regioni di immigrazione. Per il presidente della Repubblica Mattarella, i flussi talvolta rappresentano un segno di impoverimento piuttosto che una libera scelta ispirata dalla circolazione dei saperi e delle esperienze. Lo abbiamo detto poc'anzi, laurearsi nonostante tutto paga ancora in Italia, tuttavia cala nella penisola il numero dei laureati. Molti ragazzi scelgono di abbandonare gli studi o decidono di fuggire all'estero. La nostra penisola si colloca agli ultimi posti della classifica elaborata da Eurostat relativa al numero di dottori in Europa. Il numero dei ragazzi tra i 30 e i 34 anni laureati in Italia è in diminuzione, migliorano invece paesi a reddito più basso come Romania, Croazia e Polonia. Se scendiamo di pochi anni di età, cogliamo però qualche segnale di speranza. Secondo una web survey di scuola.net, l'università sembra ancora essere la strada maestra per la maggior parte dei giovani che hanno concluso questa estate la maturità, tanto che l'85% di loro ha deciso di optare per l'immatricolazione, il 4% cercherà fortuna all'estero o partirà per studiare fuori dai confini nazionali. Anche se la disoccupazione giovanile è ancora inaccettabilmente alta, i numeri stanno chiaramente scendendo anche grazie a Garanzia Giovani. Il 64% dei ragazzi italiani che sono rientrati nel programma a 6 mesi di distanza sono ancora occupati. La commissaria europea Thyssen spiega i risultati dell'iniziativa voluta da Bruxelles. Secondo i numeri della Commissione, 3 anni di Garanzia Giovani hanno dato opportunità di lavoro o formazione a 9 milioni di giovani europei. La maggior parte delle offerte in Italia, però, oltre il 60%, sono tirocini. Solo il 30% sono offerte di lavoro, mentre nella media europea è esattamente il contrario. Resta stabile l'internazionalizzazione delle scuole italiane. Secondo l'ultimo rapporto Intercultura, che segnala il 63% degli istituti scolastici ha avviato almeno un'iniziativa internazionale. Circa 7.400 gli studenti delle scuole secondarie che sono partiti per almeno 3 mesi all'estero, più del doppio rispetto a 6 anni prima. Preferite le mete anglofone. Calano invece gli arrivi di stranieri. A Giovani Talenti, il segretario di Intercultura Roberto Ruffino illustra il risultato dell'ultima ricerca Ipsos sugli studenti che avviano scambi all'estero. C'è una facilità molto, molto maggiore a trovare trovare un lavoro, ma non un lavoro qualsiasi, un lavoro molto soddisfacente. Hanno identificato a un certo punto una misurazione di un tasso di soddisfazione della propria vita e del proprio lavoro tra i ragazzi che sono stati via, che è altissimo, tra l'80 e il 90%, mentre tra i loro coetanei ondeggia tra il 40 e il 50%. Chi torna dopo i vostri programmi resta successivamente in Italia oppure va all'estero? Molti vanno all'estero, hanno molta più facilità di andare all'estero inserendosi facilmente nella vita dei paesi dove vanno. Terzo anno del programma Ermenegildo Zegna Founders Scholarship, l'iniziativa che prevede un investimento fino a 1 milione di euro l'anno per finanziare la specializzazione internazionale dei talenti italiani, motivandoli a rientrare nella penisola dopo il soggiorno all'estero. Assegnate 33 borse di studio, la maggior parte dei fondi sono andati a studenti che frequenteranno atenei e centri di ricerca in Gran Bretagna e Nord America. Sarà l'ambasciata italiana a Washington a ospitare il 17 e 18 ottobre la conferenza annuale degli scienziati e studiosi della North America Foundation. Tra gli eventi previsti la premiazione dei giovani ricercatori italiani attraverso l'ISNAF Young Investigators. Una buona notizia per chiudere: dovrebbero partire entro inizio 2017 le 500 cattedre NATA previste dall'ultima legge di stabilità per consentire agli atenei di chiamare a insegnare i migliori cervelli italiani e non. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Germania per la prima volta in questa nuova stagione. Una meta di approdo professionalmente sicura per i nostri giovani professionisti. La prima, ricordiamo, per espatri nel 2015. Nome: Michele. Cognome: Barbagli. Età: 31. Città di origine: Arezzo. Studi: Ingegneria Meccanica, Università di Firenze. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2011. Per andare dove? Colonia, Germania. Perché? Per un'esperienza lavorativa di tesi inizialmente. Qual è il lavoro svolge attualmente? Area Sales Manager Rail Systems. Dove? A Colonia, Germania. Tornerai? Torno regolarmente, per piacere. I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember when we used to have so much fun? I used to cry sometimes. Those days are gone. Do you remember? Avrei piacere a partecipare alla vostra trasmissione per poter dare nel mio piccolo parole di fiducia e incoraggiamento a tanti giovani italiani come me che forse si sentono un po' demotivati o scoraggiati. Così c'è scritto Michele nella prima email che ha inviato a giovanitalenti@radio24.it. Vado al sodo. Quali sono queste parole di incoraggiamento? Cosa diresti oggi a un tuo coetaneo che fatica a trovare la propria strada qui? Ti direi per prima cosa di tenere duro e di credere nel fatto che ha ricevuto un'ottima educazione, ha ricevuto delle grandi possibilità e le opportunità, se le vogliamo cercare con metodo e con tecnica, ci sono. Tutto comincia per te con una laurea a Firenze in ingegneria meccanica. Cosa ti porta su quella strada? Molto semplicemente il sogno di bambino che giocava con i trenini. E durante la laurea hai modo di confrontarti da tirocinante col mondo del lavoro italiano. Quale impressione ne ricavi a livello soprattutto di opportunità? Un'ottima impressione, persone che avevano tanta voglia e passione a insegnarmi, però ovviamente dei limiti inevitabili nell'aspetto remunerativo per poi entrare nel mondo del lavoro. Anche perché tu allo stesso tempo fai un tirocinio nell'azienda dove lavori ora, la Fogtech. Quali differenze noti a livello di ambiente lavorativo e anche di remunerazione, chiaramente? Beh, a livello lavorativo sicuramente una struttura più organizzata, probabilmente meno spontanea, più organizzata, e a livello remunerativo una differenza enorme, ovvero in Germania un tirocinio permette di vivere autonomamente. Un tirocinio, non il lavoro. Ora sì. Ti chiedo, come facciamo spesso, un giudizio sulla qualità di insegnamento accademica in Italia. Vale la pena studiare qui o è meglio andare all'estero? Assolutamente vale la pena studiare in Italia. Le università italiane nei vari settori sono comunque sempre tra le migliori. Certo, hanno il limite di essere un po' rinchiuse in se stesse, per cui studiare in Italia, ma sempre inserire, integrare con un'esperienza di studio, di tirocinio e di lavoro all'estero o in azienda, ad esempio, per vedere un po' cos'è il mondo. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. La mia tesi, svolta in cooperazione tra la mia azienda e l'Università di Firenze, in lingua inglese dal titolo Rolling Stock and Fire Protection, costituisce ad oggi l'unica letteratura tecnica al mondo dedicata a questo ramo dell'ingegneria. Spieghi. Ti assunsero subito, Michele, in Germania e con quale ruolo? Sì, mi assunsero subito, già da prima, diciamo, della fine della tesi, inizialmente come ingegnere di progetto, nello specifico per seguire progetti per il mercato italiano. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Michele Barballi, 31enne ingegnere meccanico con specializzazione ferroviaria, al lavoro in Germania. Dopo la laurea in Italia gli sono bastati due tirocini tra Italia e Germania per comprendere che le opportunità migliori nel suo settore erano presenti in terra tedesca e ha colto l'occasione al volo. Il perché ve lo spieghiamo in questa puntata, insieme ad alcune dritte utili per giovani ingegneri di talento all'ascolto. Giovani Talenti. Com'è stato l'impatto non solo lavorativo ma anche di vita con la Germania? Ora vivi a Bonn, ex capitale della Germania Ovest. Quanto è stato facile trasferirsi, adattarsi a uno stile di vita anche diverso? Di sicuro non è stato naturale e immediato, però fin dall'inizio uno si rende conto che se uno ha voglia e interesse a godersi questa nuova esperienza, tutto viene automatico. Si fanno nuove amicizie, si conoscono persone, si trovano nuovi gruppi e in maniera rapidissima, senza rendersene conto, ci si è costruiti immediatamente una nuova vita. In questi anni mi sono specializzato molto nel mio settore. Dopo esperienze ricerca e sviluppo, progettazione e project management in tutto il mondo, a oggi occupo un ruolo di responsabile di prodotto e commerciale a livello internazionale. Ci dici, nella pratica di cosa ti occupi? Nella pratica mi occupo di preparare offerte tecniche, seguire progetti nel settore ferroviario per il tipo di impianto che la mia azienda produce, di garantire che il prodotto sia conforme alle specifiche tecniche, sia conforme alle omologazioni specifiche e in generale di far sì che il prodotto abbia il mercato e che abbia una buona presenza nel mercato. Quanto ti chiedo le numerose esperienze internazionali che hai poi svolto durante il lavoro, a parte chiaramente quella tedesca, hanno contribuito a farti crescere professionalmente? Moltissimo. Ho girato un po' per lavoro in tutto il mondo e questo permette di avere una visione globale degli aspetti professionali che altrimenti non si ha. È chiara la prospettiva di crescita di carriera oltre confine? No, come non è chiara in Italia da questo punto di vista. Certo, la crescita è sempre a disposizione, si tratta di quanta voglia uno ha di prenderla. La carriera valgono sempre le solite regole, chi vuole fare carriera le fa comunque in qualunque paese. In Germania ho notato una maggiore disponibilità ad assumere stranieri, rilevi. Perché e quali sono le differenze in questo caso con l'Italia? Secondo me per tre motivi. Il primo è un aspetto di macroeconomia. In questo momento la Germania è un'economia molto funzionale, di conseguenza ha bisogno di assumere persone e contemporaneamente sono molti paesi che non hanno questa economia funzionante, quindi hanno bisogno e quindi i giovani si esportano verso la Germania, il cosiddetto brain drain effect. C'è in più un aspetto culturale ovviamente, e che è che qua c'è un'identità nazionale minore, per cui è più facile per uno straniero integrarsi rispetto all'Italia. E come ultima ragione, secondo me, è che qua mancano in maniera fortissima professionalità di alto livello e di conseguenza devono essere importate. La nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Allora, le proposte concrete le lascio ai politici, che sono loro gli addetti ai lavori. Però di sicuro posso dire che vedendo l'Italia da fuori ho imparato a comprenderla meglio. Tante cose che finché ero in Italia odiavo e non riuscivo a capire, adesso le vedo con occhi differenti. Posso dire che forse ci sono tante cose da cui l'Italia può ripartire. Aspetti culturali, di mentalità, di storia, di ingegneria anche, di grande qualità ingegneristica. Sono sicuramente cose su cui l'Italia può ripartire. Ci raggiunge ora in linea Andrea Braccialli, docente all'Università di Firenze di costruzione di materiale ferroviario e responsabile materiale rotabile Ital Certifer. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Professor Braccialli, andare all'estero, le chiedo, è l'unica soluzione per giovani brillanti e internazionali come Michele? No, non lo è, anche se effettivamente è molto attraente. I nostri giovani hanno grandi capacità e grandi possibilità adesso di girare il mondo fin dai tempi degli studi con i vari progetti Erasmus e quindi è diventato naturale per loro pensare all'Europa come un'Italia allargata. Lei non solo è docente ma è anche titolare di una società di consulenza che opera soprattutto nel settore ferroviario. Le faccio una domanda diretta: come si trova lavoro in Italia per giovani con la formazione di Michele? C'è un mercato del lavoro aperto? Dunque, limitandomi al settore nel quale io opero ovviamente, che è c'è un incumbent, c'è un operatore che è ovviamente il gruppo FS che detiene la maggioranza delle attività industriali nel settore ferroviario. Da anni il gruppo FS recluta solamente gli ingegneri attraverso un master post laurea effettuato in collaborazione con l'Università di Roma La Sapienza. Nelle aziende del settore ferroviario la situazione è, ahimè, un po' più critica. Infatti lei ha mandato a Giovani Talenti @radio24.it un elenco di grandi e piccole aziende italiane ed ex italiane che operano in questo settore, e più che un elenco appare un cimitero, una spoon river dell'ingegneria ferroviaria. Dove abbiamo sbagliato? Ma forse gli storici datano l'errore all'inizio del millennio, quando un'azienda storica italiana, Fiat Ferroviaria, fu ceduta al gruppo francese Alstom. Poi ci fu un accorpamento fra Breda e Ansaldo, e da lì tutta una serie di, chiamiamoli errori o di opportunità mancate, che hanno impedito di creare un polo ferroviario nazionale abbastanza forte. I piccoli poi sono stati vittima della globalizzazione, del fatto che il processo di costruzione e di omologazione di un veicolo è diventato sempre più importante e molto più strutturato. Quindi la selezione naturale ha fatto sì che trovare lavoro in Italia oggi nel settore ferroviario sia diventato oggettivamente abbastanza complesso. Le faccio un'ultima domanda. Molti suoi studenti ora sono all'estero, non solo in Germania, ma anche Francia e Belgio. Com'è stato il percorso per loro? Qual è l'iter classico che hanno seguito? Non esiste in realtà un iter classico. Spesso i miei studenti vanno a lavorare in Italia, in realtà che però appartengono a gruppi stranieri, e come opportunità di carriera alle volte finiscono all'estero, perché come noi sappiamo, come diceva anche Michele poc'anzi, la possibilità di carriera all'interno di questi gruppi è abbastanza elevata, purché uno abbia voglia di prendere l'opportunità. I nostri giovani sono bravi, sono molto bravi. Diversamente da Michele, ritengo che non sempre l'università italiana sia a livello che i nostri giovani meriterebbero, ma qui forse si aprirebbe un discorso troppo più ampio. E purtroppo non abbiamo il tempo di farlo. Io ringrazio intanto il professor Andrea Bracciali, e c'è la nostra domanda di rito per Michele Barbagli. Domanda con un taglio, ti chiedo Michele, molto pratico, un consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio, magari proprio un collega ingegnere. Per prima cosa, di non andare impreparati. Troppi ancora pensano che all'estero ci sia l'Eldorado e basti partire sfruttando Schengen e l'assenza di necessità di permesso di soggiorno, e non funziona così. Quindi farsi un piano intelligente, tecnico, preparato per vedere esattamente quali sono le opportunità, imparare la lingua davvero bene, almeno l'inglese, e non partire se non si ha un contratto. Mai. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una manager per le relazioni esterne alla Royal Institution of Chartered Surveyors, sede di Bruxelles, scadenza per i CV 19 ottobre, email a adumitrascu@rix.org. Una project director per l'impresa di costruzioni Skanska a Budapest, in Ungheria, scadenza per i CV domani, info su skanska.hu. E infine un ricercatore per Human Rights Watch, sede di Londra o Parigi, scadenza per i CV oggi, email a recruitment@hrw.org. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi torniamo a parlarvi di Norvegia e di come sia possibile considerare questo paese un obiettivo di espatrio per chi sogna una vita o un lavoro nel nord Europa. Lo facciamo con Camilla Bonetti, autrice del volume Dalla A alla O, Norvegia, istruzioni per l'uso. Tutto è iniziato con un blog, come ci spiega la stessa Camilla. Mi sono resa conto che per una persona decisa a fare una scelta del genere, un passo del genere come il trasferimento all'estero, le informazioni contenute nei post del blog non fossero sufficienti, e quindi ho pensato di creare uno strumento pratico, più maneggevole, in un certo senso più dettagliato, e appunto è nata l'idea del libro ed è nata l'idea della struttura alfabetica del libro. Come si traduce questa struttura alfabetica? Mi sono confrontata con norvegesi, sia i colleghi che le ragazze con cui vivevo, amici, insomma più persone possibili, per trovare le 28 parole chiave con cui raccontare il paese, la Norvegia. Quindi le parole che ho scelto sono tutte in lingua originale, con la spiegazione in italiano e successivamente appunto la descrizione dei vari concetti. Per chi volesse lavorare in Norvegia, quali sono i tuoi consigli? In Norvegia, come ho scritto nel libro, esiste un sito che si occupa esclusivamente di descrivere le varie professioni e spiega i requisiti fondamentali per svolgere ciascuna di queste professioni in Norvegia. Quindi la prima cosa da fare è consultare questo elenco di professioni e cercare di capire se i nostri requisiti sono effettivamente giusti per quello che vogliamo andare a fare in quel paese. Dopodiché cominciare la ricerca dall'Italia. Ci sono dei portali di cui parlo nel mio libro, dedicati proprio agli annunci di lavoro, che ricoprono uno spettro molto ampio, dal servizio pubblico agli impieghi nel settore privato. Si trovano tutte le offerte di lavoro da nord a sud, e quindi cercare qui, cominciare a mandare delle proposte, vedere un po' che tipo di risposte riceviamo, e poi appunto imparare la lingua, cominciare almeno un corso base dall'Italia